usava il BV2002, quello transistor, ce l'hai presente, giusto? E, montava le resistenze, quelle piccole, da 10 ohm. A posto di mettere di quelle, ci ho messo quelle da 10, giusto? E se non mi ricordo male, adesso, da me vuole male mi inganna, se non mi ricordo male, ho 5 o 6 transistor, una cosa del genere, e pompava 800 watt. Io abitavo a casa sua, da Mario Mansell. Lui usava il Kenwood, usava il mio 180, lo pilotava tranquillamente con 10 watt, perché glielo ho insegnato io, e lui a casa al saldo arrivava 9,25-9,30. E si sono lamentati quel periodo lì che lui modulava con me quando io uscivo in macchina per lavorare a casa al saldo, se no chiedi a fanculo, non mi ricordo che un cazzo lavorava adesso, vabbè, comunque sia, chiunque sia, in pratica quella lineare pompava 800 watt tondi tondi in AM, ti parlo solamente in AM, ma lascia perdere la barra laterale. Quando lavoravo da casa sua, che io dormivo lì, che pompava, io detto, un giorno gli hanno detto, dice, ho stacco, come si chiama, se no dice, non muovo più, e io gli ho detto a casa Sardo, che lui arrivava quasi 9,20, figurati, Mario Marsen, con quella mantova che c'aveva lui, con la mantova 5, gli ho detto, Mario, ho detto, se stacca lì, ha detto, guarda, io ho detto, te la stacco tutto, te la stacco, ho detto, il 80, e te la stacco, ho detto, lineare, gli ho detto, che roba mia, e me la porto a casa, ho detto, in via Vizzetto, che via vado abbasso, gli ho detto. Allora, ha preso, e ci ha messo a pompare. Quindi te lo sto dicendo per quel motivo lì. Io la modifica non ci vuole molto, basta, non ci vuole niente. Allora, per avere più watt, per un lineare da 600 a transistor, quello che è, eccetera, eccetera, basta modificare la resistenza. Basta metterla da 10 ohm, 10 watt, non ci vuole nient'altro. Poi delle valvole, Mario valvole non era verba, cioè solamente quella transistor, non aveva altro, però pompava 800 watt e dava fastidio a un sacco di gente, il discorso è quello. Antone, mi sembra più Falcone adesso, Falcone, hai fatto un passaggio di 6 minuti e 80 secondi. Ma te lo sto dicendo, perché così, la questione è questa, non è che, cioè, quello che hai detto tu è sbagliato, sono informato su queste cose qua, ma io gliel'ho detto io, perché la questione è questa, non è come ha detto lui, è totalmente diversa, hai capito? Io, in pratica, ho abitato, se ti ricordi bene, a casa di Mario Mansell, quasi 6 mesi, se non di più, forse 7, una cosa del genere, e tutte le apparecchiature, il cable, il 80, il lineare che lui aveva comprato, l'avevo collegato al 80, lui non bastava altro che collegarlo con 10 watt d'ingresso, in pratica, e pompava più di 800 watt, il discorso è quello. Poi vabbè, c'era Mario Mao che era vivo, eccetera, eccetera, si lamentava perché pigliava splatter, anche Gio Maria, eccetera, eccetera. Comunque io quando sono andato a casa Sardo con fanculo, non mi ricordo il nome, che lavoravo lì insieme a lui, arrivava a 9,20 di là, vuol dirmi quello che vuoi. Ho capito, va bene ragazzi, va bene. No, ti ho chiesto questo fatto qua, se sapevi qualche cosa del lineare, perché lo devo provare, a vedere un po', se va bene lo piazzo, se no niente, se no vuol dire che niente, non lo uso. Ascolta, non so, io non so cosa dirti, se vuoi rischiare, io ti sto dicendo, cioè se lo metti il potenziometro, arrivi che baci con un tecnico, non ti costa niente, hai capito? Il problema è che devi fare prima il pezzo, perché il pezzo originale sono tutti e due bruciati, sia il primo sia il secondo, perché quando in pratica ho staccato il pezzo dal primo, sono passato al secondo, è la stessa identica cosa, non cambiava nulla, hai capito? A un certo punto, ma non è roba di valvole, è roba di niente, il relè scatta, hai capito? Perché il relè funziona, i condensatori non sono saltati, quindi perché non sono saltati, a un certo punto l'unica cosa, non lo so, vedi tu, se no fatti dare un coso da, se c'ha un lineare Walter da 24 volts, un B750 e cosa del genere, non faccio altro che staccate la piastra, quella che ho io, di quelle 550 che ho io, ti faccio i fori dietro, ti lascio le agganci per poter alimentare quelle B750, cazzo, e ti usi un bel trasistorizzato per di quelli grossi e sei a posto. E me lo fai tu? E certo che te lo faccio io, qual è il problema? Non ci vuole molto, due fuori dietro ci vogliono, non è che ci voglia nient'altro, no? Naturalmente il lineare va all'esterno e non va all'interno, mettetelo bene in testa, il discorso è quello lì, hai capito? Quindi in pratica i 24 volts che arrivano lì all'interno di questo lineare del BV2002, quello che è, eccetera eccetera, ti alimentano un 750, un 550, tutti a 24 volts, il discorso è quello lì. Non puoi usare il wattmeter, al limite lo utilizzi esterno, quello che è, e sei tranquillo, però c'è un bel alimentatore che ti pilota tutto, e se lo chiedi a Gigi Vulcano, io a Gigi Vulcano gli avevo dato 100 euro me, quelli che avevo prima, era più messo male di questo che ho io, figurati tu, era totalmente rugginoso. Non ho fatto che in pratica usare l'alimentatore, il trasformatore, più il circuito del ponte, io ci sono, mi sembra, se mi ricordo male, sono 12 condensatori, una cosa del genere, e lui si è portato tranquillamente quasi le linee del camion, 750, 550, quello che voleva, bastava che i fori ci sono quei fori del PL, non ci vuole nulla, no, a collegare due barilotti, cioè due cosi, uno rosso, uno nero, o due rossi, uno nero, quello che si fa i fori, e poi collegare qualsiasi alimentatore, capito? Dipende da te. A meno che non te lo vuoi sistemare, ti buschi un 550p, non fai altro che togliere uno e metterci l'altro, basta, non devi fare nient'altro. Va bene Antonio, dai, vediamo se riesco a... ma non penso, perché è difficile, è un amplificatore difficile. Babù, dai, ti saluto a Gavino, perché tanto credo che ci sia, se non è uscito, e niente, sentiamo con calma domani, non andate a alzarvi presto, quindi devo prepararmi ancora un po' di roba, andare a mangiare i cani e poi andare a nanna, Ma ti saluto, dai, ti faccio sapere. Ciao Antonè, aspetta i saluti e poi vado via. Ok, dai, ciao te, fammi sapere qualcosa, vicino hai tu. Cosa vuoi che dica io? Non so cosa dirti. Secondo me, quelli là si può mettere a posto, poi il problema è il trimmer, cercare il trimmer della ZG, che qui a Sassari non lo vendono, il discorso è quello. In pratica ti fa AM SSB, non ti fa nient'altro. Però le valvole funzionano perché accendono, se tu il relay scatta e i watt salgono, e dopodiché se ne scendono subito, capito? Perché non. Quella specie di trimmer bruciato, capito? Il discorso è quello, ha avuto un rientro di alta frequenza, il discorso è quello lì. Non lo so, oppure lui è sbagliato, se n'è andato in, cosa ti posso dire? E l'RM se n'è andato in barato, non ha bruciato il coso, non è come gli lineari normali che c'è il pulsantino AMSSB, hai capito? C'è questa potenziometro, purtroppo è così, il discorso è quello. Eia, vabbè dai Antone, ciao ciao, buonanotte, saluta mia Gabino quando rientra. Ok, va bene, non c'è problema, là. Se rientra Gabino non c'è problema, già te lo saluto. Ok, ciao, alle prossime. Va bene ragazzi, ce la ascoltiamo alle prossime. Sì, chiudo perché la verità mi stanno chiudendo gli occhi, sono un po' stanco, dai. Ciao Antonello e ciao Tino, ce la riascoltiamo domani se volete entrare, io dopo cena sono qua come sempre, ok? Buonanotte anche a chi l'ascolto, ciao. E ciao, ci sentiamo domani là. Saluto anche a te, buonanotte, buon tutto, alle prossime.